Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono luoghi che possono determinare i destini quasi quanto le persone. Luoghi carismatici, luoghi dove le energie sembrano catalizzarsi per poi esplodere in mille applausi di entusiasmo. Oggi i protagonisti di Destini Incrociati iniziano il percorso che li vede insieme in uno di questi luoghi. E forse la loro storia sarebbe stata molto diversa se il loro incontro fosse avvenuto altrove, in un posto meno simbolico di quello che stiamo andando a conoscere. Il luogo è il Madison Square Garden. Madison Square Garden. Il leggendario stadio della città di New York, per molti considerato il Colosseo dell'era moderna. È il 1967 e il vecchio Madison, in piedi dal 1925, va in pensione. Lo stadio che ha ospitato tutti i più importanti match di hockey su ghiaccio e di basket della città di New York, ma che soprattutto è diventato il luogo che ha fatto la storia della box, chiude in vista della costruzione di un nuovo Madison più grande e moderno. Ci sono emozioni, ci sono brividi che solo certi posti sanno dare. Il Madison di New York è uno di questi. Guardare un incontro di box nella sua arena è un'esperienza che porta con sé l'eco di mille altri incontri con pugili indimenticabili. Primo Carnera, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Rubin Hurricane Carter e il mitico Jack LaMotta. Like they call it the Empire State, but I think that New York City is not an empire city, it's a phoenix city. It's a city that rises from its own ashes again and again and again. Ai newyorkesi piace celebrare i loro monumenti, l'Empire State Building, il Chrysler Building, la Statua della Libertà, dove si è svolta la prima Ticker Tape Parade, la tradizionale parata dove viene lanciata una pioggia di pezzettini di carta dalle finestre. Quindi sono pronti a festeggiare anche l'addio alla loro arena preferita. Ma ci vuole un evento grandioso, ci vuole un simbolo. Per l'evento la risposta viene naturale. Nel Tempio del Pugilato ci vuole un incontro di box. Ma chi è il simbolo della box al Madison? I conti sono presto fatti. C'è chi è quasi di casa al Madison, chi ha disputato ben 18 incontri su questo ring sui 58 dall'inizio della sua carriera, vincendoli quasi tutti. Il Madison ha il suo re, e questo re è Emil Griffith. Emil Griffith. L'occasione è la sfida al titolo di nuovo campione mondiale dei pesi medi. Gli organizzatori del Madison partono subito con i dettagli. Griffith, il detentore del titolo fino ad allora, è già pronto a scaldare i muscoli. Resta da vedere chi sarà il suo contendente, l'uomo che insieme ad Emil passerà alla storia. Nel panorama dei pugili degli Stati Uniti non è rimasto granché. Griffith ha eliminato negli anni tutti i suoi avversari. Dick Tiger, Joy Archer, Manuel Gonzalez. Agli organizzatori viene in mente di guardarsi intorno, anche fuori dai confini del paese. E quando dal vecchio continente viene lanciata una sfida da un campione europeo, il comitato del Madison la raccoglie e la sottopone a Griffith. Emil è un campione generoso, corretto, gentile, sempre allegro e disponibile. Lo è anche questa volta, quando decide di concedere a uno sconosciuto sfidante europeo la possibilità di battersi con lui, che è un campione già consacrato nella Hall of Fame. A Emil piace questo ragazzo che si sta giocando non solo il titolo di campione dei pesi medi, ma la dignità. Un ragazzo che ha scelto di lasciare i tranquilli lidi del suo paese per gettare il guanto ai piedi di Griffith e di un'intera nazione. Uno che ha avuto il coraggio di sfidare il campione in carica, dichiarando di essere il numero uno della vecchia gloriosa Europa. Un bravo ragazzo. Re, non farla piangere, vive per te. Quattro, non l'abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore. Ah. È un atteggiamento un po' da gradassi, ma si sa, gli americani non dispiace il genere. E poi diciamocelo, c'è anche un po' di calcolo in questa decisione. Non sarà questo ragazzino uscito da chissà dove a mettere in crisi un campione come Griffith. Lo sfidante non ha una singola possibilità. Il risultato è scontato. Quindi è deciso, l'incontro si fa. È il 17 aprile 1967. L'arena si sta riempiendo. Sportivi, VIP, uomini in giacca e cravatta e donne elegantemente vestite. L'eyeliner che evidenzia occhi spalancati sulla serata memorabile. Stanno tutti prendendo posto nelle file che circondano il ring. Questo è solo una piccola piattaforma quadrata, circondata da corde. Ma in quel piccolo spazio, ogni volta, le sorti di due uomini si decidono a suon di pugni. Sul ring sta per salire il primo dei protagonisti della nostra storia. Il campione da tempo imbattuto Emil Griffith, il pugile nero originario delle Isole Vergini, che nel 1964 è stato eletto Fighter of the Year, pugile dell'anno. Ma in questa mite serata di metà aprile del 67, nello stanzino che gli è stato assegnato e dove si sta scaldando, c'è anche l'altro protagonista di Destini Incrociati, lo sfidante di Emil Griffith, che ancora non sa di avere un destino glorioso davanti a sé. Per ora c'è solo la speranza di vincere un match fondamentale per la sua carriera. A differenza di Griffith, per quest'uomo, si tratta della prima volta al Madison, anzi, è la sua prima volta in America. Lo sfidante di Emil Griffith è un ragazzo biondo che sta misurando il battito cardiaco, 56 pulsazioni al minuto. Bene, questo vuol dire che è calmo, sereno, concentrato. Può entrare nell'arena e sostenere con tranquillità il boato del pubblico che lo accoglie, le luci accecanti dei riflettori che illuminano il ring. Il ragazzo pensa a quello che lo aspetta, pensa alla scelta che ha fatto, e le sue scelte non sono mai casuali. Sa quello che vuole e insieme al suo manager e al suo allenatore pianifica con attenzione i suoi incontri. In Europa ha vinto tutto e nel suo paese è già considerato un mito, uno che ce l'ha fatta, uno che è entrato nel circuito internazionale togliendosi quella patina di provincialismo che affligge i suoi connazionali. Oggi sa che non può lasciarsi sfuggire l'occasione che un grande pugile come Griffith gli sta offrendo. Si sente in forma, si sente pronto. E la fatidica sera è arrivata. I campioni salgono sul ring. Il presentatore si impossessa del microfono che scende dal soffitto e annuncia. In his American debut, European champion Nino Benvenuti challenges world middleweight champion Emil Griffith. Nino Benvenuti. Nino. Per tutti gli italiani. Con la sua carica di simpatia, di umanità, di semplicità, in pochi anni, è diventato il simbolo di un'Italia che cresce, che si evolve e soprattutto che spera. E poi è la speranza della box nostrana di battere l'America, la patria del moderno pugilato. È la speranza di vedere il beniamino del paese riuscire in qualcosa di impossibile. Benvenuti arriva a New York con la certezza che la sua sfida significhi tutto questo anche per gli americani. Ma ben presto scopre che dietro la scelta del comitato del Madison ci sono ben altre ragioni. Buon Bruno Amaduzzi, il mio manager, che era lui, trattò con gli americani questo combattimento, i quali però erano ben disposti ad organizzare questo incontro, perché c'era la prevalenza dei neri in quel momento, che battevano tutti, erano loro i campioni di tutte le categorie quasi. Per cui un bianco che venisse a, insomma, scrissero bello, bianco, buono, insomma, bravo, tutto quello che c'era per trovare, di mettere in confronto questi due atleti. Insomma, il bianco col nero era garanzia di successo e fu proprio così. Per gli americani Nino Benvenuti è soprattutto un bianco. E questo è un particolare di non poco conto per un paese dove la segregazione razziale è ancora largamente diffusa e dove solo 3 anni prima, nel 1964, viene approvata la legge sui diritti civili, la Civil Rights Act. In questo momento a Nino Benvenuti tutto ciò importa poco. Adesso, davanti a lui, c'è Emil Griffith, una leggenda. La campana del primo round è appena suonata e i due pugili si ritrovano a studiarsi, scambiarsi colpi al centro del ring. Benvenuti prova qualche allungo, mentre Griffith preferisce mantenersi sulla corta distanza. Buon uso del jab sinistro, poi tenta il montante destro, Benvenuti. 1 minute left in round one, it is scheduled for 15, they are 3 minute rounds of course. Buon uso del sinistro da parte di Benvenuti. There's that long right hand by Benvenuti. And Griffith to the body. È il secondo round e improvvisamente Griffith finisce al tappeto per qualche secondo. E c'è Griffith che finisce al tappeto. Three, four, gotta take the mandatory ace count. Contatto. È stato that's un corto destro di Benvenuti. The champion ran into one. 25 seconds left in the round. Benvenuti cerca di sfruttare il momento favorevole. A Griffith non manca l'esperienza. 10 seconds left in the round. La quarta ripresa mostra l'equilibrio fra i due sfidanti, ma alla quinta ripresa è Benvenuti che va giù. Si rialza al 5 dell'arbitro. Da questo momento il match prosegue con grande equilibrio. I due pugili mostrano esperienza e capacità molto simili. Ma dopo l'undicesimo round, Griffith inizia a dar segno di stanchezza e Benvenuti ne approfitta, giudicandosi le riprese seguenti. Nell'ultimo round il pugile nero cerca di recuperare, ma Nino sente vicino il successo e imbriglia l'azione di Griffith. Quando suona la campana, non resta altro che aspettare il verdetto dei giudici di gara. L'ultimo colpo di gong. Attenzione il verdetto. Judge Leo Brainbaum and referee Mark Khan both score it 10 to 5 in favor of Benvenuti. 10 a 5 per Benvenuti. Nino Benvenuti is the new middleweight champion. E Benvenuti è il primo pugile italiano a conquistare un titolo mondiale sul ring del Madison Square Garden. 9 to 6 for Benvenuti, the winner. And the new decision. The new middleweight champion of the world, Nino Benvenuti. E la gloria. Nino Benvenuti è il secondo europeo, dopo Marcel Cerdan, ad aver vinto la corona mondiale dei pesi medi. L'incontro vince anche il titolo di The Match of the Year, il match per l'anno 1967. È successo l'incredibile. Un pugile italiano ha sconfitto a sorpresa la leggenda Emil Griffith, il fortissimo pugile di colore, emblema degli altrettanto forti Stati Uniti. L'Italia intera si sente in cima al mondo. Questa notte sono 18 milioni gli italiani che seguono dalla radio il resoconto del match. Uomini, ragazzi e persino bambini trascorrono la notte con la radio sotto il cuscino, ascoltando la cronaca di Paolo Valenti e attendendo il risultato che arriva solo all'alba. È terminato l'incontro, questa ultima ripresa ha visto l'attacco forsennato di Griffith, ha visto un destro efficace di Griffith, ha visto Benvenuti stringere i denti e resistere con una volontà estrema. L'avvenimento non è stato trasmesso in televisione perché la dirigenza Rai vuole tutelare il sonno degli italiani. Pia illusione. Sono tutti svegli quella notte e quella sarà l'ultima volta che la televisione italiana si farà sfuggire un'occasione così ghiotta. La vittoria di Nino incendia il paese. Quando Benvenuti torna in patria, sono decine i raduni che si formano per accoglierlo. A Milano Nino viene fermato in Corso Sempione. A Trieste, sua città d'adozione, l'intera popolazione si riversa nelle piazze per omaggiarlo. Ma c'è stato chi, prima di tutti, si è complimentato con Benvenuti stringendogli la mano. Alla fine dell'incontro, Emil Griffith si congratula con il suo sfidante e gli esprime tutta la sua stima e rispetto. Griffith non è uno sciocco e si rende subito conto che ha di fronte un pugile di razza. Per uno come lui, che ha subito la box più che sceglierla, che ha accumulato incontri su incontri senza starsi tanto a chiedere il perché, la figura di questo italiano che sembra costruirsi la carriera a tavolino è sorprendente. Inoltre, con i suoi passi da damerino e l'eleganza innata, Benvenuti impone uno stile completamente diverso da quello degli imponenti pugili di colore americani. Come abbiamo già anticipato, a Emil Griffith la box sembra che sia capitata davanti un po' così. Non è stata una passione. Anzi, è un po' come se sia stata lei a scegliere Emil, invece del contrario. Tutto inizia negli anni 50. Emil Griffith lavora a New York in una fabbrica di cappelli e il posto gli piace. Per uno come lui, nato nelle Isole Vergini e abituato a mangiare poco e a soffrire tanto, avere un buon posto e consegnare cappelli nei grandi magazzini è già il paradiso. Ma è il suo fisico a parlare una lingua diversa. Se ne rende subito conto il suo principale, un ex pugile che quando vede quel giovane dalla vita sottile, il torace poderoso e le braccia dai muscoli possenti, gli propone di provare ad allenarsi su un ring. Mi dissero un giorno che se volevo potevo andare in palestra e io dissi ok. Quando arrivamo lì mi dissero, vedi quel signore lì? Credo fosse l'allenatore Clancy. E Clancy mi dice, beh, vai dentro e spogliati. E io gli dico, perché? Perché spogliarmi? Io non voglio fare niente. E allora lui mi dice, ragazzo, tu stai per fare a pugni. E io non voglio prendere a pugni nessuno. Emil non ha una personalità aggressiva, tutt'altro. È molto infantile, sorride sempre. È profondamente attaccato alla famiglia che a causa della povertà è sparsa un po' ovunque. Quando il padre abbandona casa, la mamma si trasferisce a far la cuoca a Porto Rico perché ci vogliono soldi per sfamare 7 bambini. Emil dunque cresce occupandosi di se stesso, sempre disponibile, gran lavoratore. Ma se qualcuno lo deride, ecco allora in questi casi gli cresce qualcosa dentro, una gran rabbia che pare voler distruggere tutto. E allora sono guai, cazzotti che piovono senza tregua, colpi forti e precisi. Ed è quello che vogliono vedere i suoi primi allenatori, che comprendono subito di avere trovato una gallina dalle uova d'oro. Anche a Emil non par vero guadagnare tutti quei soldi solo facendo a pugni. Con le prime vincite compra una casa nel Queens, dove radunare tutta la famiglia. E poi si compra vestiti, stivaletti, tutte cose un po' sgargianti a dire la verità, forse troppo per essere un pugile. Un pugile dovrebbe essere un po' più rozzo, poco appariscente, insomma un po' più macho. Nell'ambiente si inizia a mormorare. Non si può essere omosessuali e tirare di boxe. A poco il mormorio diventa più forte, tanto che quando Emil incontra per la terza volta il cubano Benny Kid Parrott, questo lo prende pesantemente in giro. E non è la prima volta. Dopo l'ultimo incontro, Parrott gli aveva sussurrato «Maricon» ed Emil l'aveva odiato. Non è colpa di Emil se è nato così. Se fa cose bizzarre come comprare $100 di caramelle e distribuirle ai bambini del suo quartiere, cercare rifugio nelle braccia dell'arbitro, suonare il piffero e altre cose da femminucce. Emil sa di essere ambiguo, ma non si è mai vergognato di essere com'è. Gli piace ballare, gli piacciono i locali malfamati e gli piace la musica, tanto che incide persino qualche canzone come questa, Going, Going, Gone. Destini incrociati. A Destini incrociati, il campione dei medi Emil Griffith dà la chance della vita a un semisconosciuto campioncino italiano, Nino Benvenuti. Nel tempio del Madison Square Garden, l'italiano porta a casa la cintura iridata, nell'incredulità degli americani e dello stesso Griffith. Un campione di cui ancora non diminuisce la fama di martello pneumatico. Quella fama nata in un tragico incontro con Benny Kid Parrott, in un evento che segna la vita del pugile afroamericano. Tutto è pronto per il combattimento quando Benny, salendo sulla piattaforma dopo Emil, gli afferra il sedere e gli grida «Ehi Emil, stasera mi ti faccio!» È la fine, o solo l'inizio di un incubo. Emil domina l'incontro. E dopo la 12ª ripresa, quando Parrott è ormai stremato, lo stende e si accanisce su di lui. Quello che segue è il commento di Norman Mailer all'incontro. Griffith sussurra strani suoni mentre attacca. Il pugno destro che picchia come un pistone o come un bastone da baseball che batte su una grande zucca. Sul viso dell'arbitro compare un'espressione di sorpresa come se venisse attraversato da uno spasmo e poi si mette attraverso di Griffith per fermarlo. È l'atto di un uomo coraggioso. Griffith è incontrollabile. Il suo allenatore entra nel ring, il manager. Alla fine ci vogliono 4 persone per trattenerlo. In 6 secondi Griffith mette a segno 18 colpi sul cranio di Parrott. Poi ne arrivano altri 29. Sono colpi che spappolano il cervello del cubano. Ma Emil pare non sentire più nulla intorno a sé, se non una voce che da dentro sembra incitarlo. Frocio a chi? Frocio a chi? L'arbitro Ruby Goldstein aspetta troppo tempo a fermare l'incontro. Pensa troppo. Pensa che Emil non ha mai fatto male a nessuno, che il pubblico potrebbe arrabbiarsi se gli viene tolto lo spettacolo. E il tempo passa. Quando finalmente il giudice prende una decisione, è troppo tardi. Benny Parrott è entrato già in coma. Ricoverato in ospedale, non si riprende più e muore 9 giorni dopo. Ha 25 anni e un figlio piccolo che adora e che porta sempre a vedere i combattimenti. Sono passati anni da quell'incontro, quando Griffith si ritrova a disputare una nuova tripletta, questa volta contro Benvenuti. Griffith non è più lo stesso uomo, ora ha paura di fare male. Ma anche Benvenuti è un uomo fatto di una pasta ben diversa dal cubano Parrott e da tutti i pugili americani neri e incazzati. Non ci saranno sorprese questa volta. Griffith lo capisce subito, appena si trova di fronte quest'uomo educato, elegante. Un italiano. Nino Benvenuti nasce a Isola d'Istria, allora ancora italiana, da una famiglia di commercianti di pesce. Non ha proprio niente a che vedere con l'immagine che corre alla mente quando si parla di un pugile. Niente miseria, nessun brutto destino alle spalle da riscattare, come racconta Benvenuti stesso. Eravamo una famiglia di commercianti, con pescheria, con i campi. Insomma, si viveva, ecco, quello che era importante all'epoca, che non mancasse mai la tavola apparecchiata in abbondanza. È proprio questa tranquillità familiare a caratterizzare il suo stile di lotta. Signorile, attento alle regole, lucido invece che feroce. Ma ascoltiamo Benvenuti raccontarci i suoi esordi nella box. Avevo 13 anni che ho creato la mia palestra nella cantina della mia villetta dove abitavo. Fortunatamente a 100 metri di distanza nasce una palestra vera con Giorgio Non, che era un palombaro di Trieste che lavorava sul Rex per i recuperi, e con la grande passione che aveva creò questo centro dove i ragazzi accorsero per il pugilato. E io naturalmente fui il primo ad esserci dentro e dopo già 6 mesi incominciavo a fare delle esibizioni. Ho fatto un'esibizione a una isola nella piazza del paese, a Pirano, a Capodistria. Poi sono andato anche a Maribor, a Pola. E insomma, avevo 39 kg la prima volta che mi sono pesato. Di gara in gara Benvenuti vince tutto e partecipa anche alle selezioni per le Olimpiadi di Melbourne, che però gli viene negata perché è troppo giovane. Ma se perde l'Australia, non si perde invece le Olimpiadi di Roma del 1960. Le Olimpiadi di Roma sono per gli italiani un evento fondamentale che contribuisce ad avvicinare lo sport alla gente. Inoltre, grazie al boom economico, l'Italia, che si sente improvvisamente entrata a far parte delle nazioni potenti, ricche, è pronta a spendere. E in brevissimo tempo, per ospitare le competizioni, vengono costruiti stadi, palazzetti dello sport, velodromi e piscine. È l'edizione in cui Abebe Bikila vince la marcia correndo a piedi nudi e Livio Berruti i 200 metri indossando un paio di occhiali neri. L'Unione Sovietica spaventa non solo con la guerra fredda, ma anche con le 103 medaglie, di cui 43 d'oro, a fronte delle 71 degli Stati Uniti. E l'Italia si guadagna un dignitosissimo terzo posto, con 36 medaglie in totale, di cui la metà sono d'oro. Benvenuti arriva a Roma che ha solo 22 anni, ma nonostante l'età fa incetta di vittorie fino ad aggiudicarsi la medaglia d'oro nella categoria dei pesi welter e la Coppa Val Barker, che in ogni Olimpiade premia il pugile migliore, soffiandola a Cassius Clay. Quella che sentiamo adesso è la breve cronaca di uno dei suoi incontri a Roma. Non v'è incertezza per quanto riguarda il successo del triestino Giovanni Benvenuti, il welter che riesce a dimostrare come il pugilato sia effettivamente una nobile arte. Benvenuti spiega la boxe ai suoi rivali, ricevendoli sul ring col garbo di un compito padrone di casa. Svolto da lui, il pugilato diventa un gioco spoglio di ogni cruda violenza. Alla seconda ripresa manda al tappeto Yuri Radoniak, un montanaro del Caucaso, ma non è che un aspetto più concreto della sua accademia. Le Olimpiadi di Roma sono per Benvenuti il trampolino verso il professionismo. Incontri si succedono a incontri e in quasi tutti è Benvenuti a trionfare. Negli anni 60, Nino Benvenuti è un simbolo dell'Italia che sta crescendo. Bello, gentile, educato, forte. È amato dai giovani e dalle donne, vezzeggiato dai media e persino dalla televisione. Sono celebri le sue apparizioni nei caroselli per un brandy dell'epoca, nei panni dell'agente 006. Io sono l'agente 006. Sis Cavallino Rosso presenta Nino Benvenuti. Ecco l'uomo che travolge gli ostacoli. L'uomo che sfida il pericolo. Ma dopo la gloria del primo match con Emil Griffith, per Nino è il momento di tornare in America. La rivincita, già contemplata nel contratto, questa volta non si tiene al Madison. Il vecchio stadio è stato chiuso e il nuovo non è ancora pronto. Quindi l'incontro si svolge allo Shea Stadium nel Queens, a New York. Ma questa volta è Benvenuti ad avere la peggio. Benvenuti commette l'errore di salire sul ring troppo rilassato. E poi al secondo round arriva un colpo micidiale di Griffith che gli spacca una costola. Benvenuti riesce ad arrivare alla fine dell'incontro, ma è l'americano ad aggiudicarsi il match. Benvenuti lo ricorderà per sempre come l'incontro in cui ha provato maggiore sofferenza. A questo punto è palese che vada giocata la bella e per l'occasione si ritorna al Madison Square Garden. Non quello vecchio, ma una costruzione tutta nuova sulla 7th Avenue. Benvenuti e Griffith diventano così gli atleti che per puro caso hanno chiuso con un loro incontro il Madison Square Garden terzo e aprono con un altro incontro il modernissimo Madison Square Garden quarto. Quando sono entrato a Madison Square Garden, il vecchio Madison in Broadway, mi sentii emozionato perché avevo letto, seguendo il pugilato, di tutti i grandi combattimenti svolti in quel ring, su quel parterre, e quindi entrare in quel posto era come entrare in paradiso per me, ecco. E poi cosa è successo? Che l'hanno abbattuto, ecco, e l'ha battuto dopo il nostro combattimento e ne hanno fatto il secondo. Quindi io ho chiuso il vecchio tempio e aperto uno nuovo. Insomma, non è una cosa da poco. È il 4 marzo 1968. Benvenuti e Griffith sono di nuovo insieme sotto le volte dello stadio del Madison Square Garden per chiudere la storia con l'ultimo di quei tre incontri. La campanella del primo round è appena suonata. Nino Benvenuti si slancia al centro del ring, subito seguito da Griffith. Inizia un balletto condotto con assoluto equilibrio dai due pugili che si protrae per ben 10 round. Ma quando arriva la campanella dell'undicesimo round, Benvenuti ha uno scatto e colpisce con forza Griffith che va a terra. È la ripresa che fa la differenza. Al termine del match, i giudici assegnano la vittoria a Benvenuti. Il titolo mondiale dei pesi medi può tornare in Italia. Benvenuti lascia il nuovo bellissimo Madison Square Garden quarto con la sensazione non solo di avere compiuto un'impresa storica, ma anche di avere inaugurato al meglio uno stadio che diventa presto, se possibile, ancora più famoso dei precedenti. E infatti da subito il Madison Square Garden inizia a ospitare non solo grandissimi match, ma anche grandi concerti, come quello dei Rolling Stones del 1969, che viene considerato il maggiore evento musicale dell'anno in uno stadio. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi parliamo di Nino Benvenuti ed Emil Griffith, due pugili con personalità assolutamente differenti che si sono trovati sul ring per scrivere le pagine di tre incontri storici. Con la terza vittoria, Benvenuti potrebbe chiudere definitivamente i conti con Emil Griffith e non vedersi mai più. Ma non è così. Fra i due, intanto, è nato un rapporto che, nonostante le differenze, si protrae nel tempo, con tanti segni reciproci di attenzione e considerazione. Emil Griffith sente che l'italiano è un essere pensante, sensibile. Per lui è abituato solo a picchiare, circondato da un mondo che non sente affine, ma che anzi lo rinnega a causa della sua ambiguità. La personalità attenta ed evoluta di Benvenuti è una rinfrescante novità, alla quale non vuole rinunciare. Del resto, anche Benvenuti sente di avere un debito di gratitudine per Griffith, il grande campione che l'ha accettato come sfidante, che gli ha permesso di raggiungere le sfere della box di livello mondiale. Fra i due inizia uno scambio di cortesie. Dopo la partecipazione di Griffith alla cresima di Giuliano, il figlio di Nino, è Benvenuti a ricambiare il favore, quando sostiene l'amico Emil in un momento importante e difficile. Griffith pubblica la sua autobiografia, 8-9-10 Out, The Two World of Emil Griffith, nella quale fa outing e racconta a tutti di essere omosessuale. Anni di ambiguità, di vestiti sgargianti, pantaloni attillati, anni di comportamenti effeminati, ma anche di autorepressione, possono finalmente essere ricordati in tutta onestà. Intanto le carriere dei due pugili proseguono, ma mentre Griffith continua con il suo solito stile casuale a sostenere incontri in tutto il mondo, Benvenuti, per mantenere il titolo di campione del mondo, sceglie con cura le sue partecipazioni. E quando arriva il momento di decidere un nuovo sfidante per il titolo di campione mondiale dei medi, la sua scelta ricorda quella che ha coinvolto proprio lui qualche anno prima con Griffith. Ma questa volta è lui che decide di offrire un'occasione a un semi-esordiente, di sfidare un quasi sconosciuto, un oggetto misterioso, come lo definisce lui stesso, Carlos Monzón. Ah, ecco, Carlos Monzón è stato un emergente, uno che era venuto fuori dall'ombra, non lo si conosceva granché, era argentino, e quando ci fu da combattere con lui ne avevo degli altri, avevo detto tutto, ma lui era quello che era il più importante, cioè era il più forte. Ed è questo che a me stimola, quando l'avversario è il più forte è lui che deve essere lo sfidante, ed era giusto che fosse. E Amaduzzi cercava di sglissare il fatto, ma io no, volevo lui, e di fatti, non che dico mal me ne incolse, ma avevo incontrato in quel momento il pugile più forte, e questo tanto bastava. Era fortissimo, mi mise knockout la prima volta, come finì. Offrendo questa occasione a Monzón, Benvenuti capisce il valore di quello che anni prima Griffith ha fatto con lui. Si può anche essere un pugile ottimo, ma senza qualcuno che ti dà la tua grande occasione, non serve a niente. E quasi come un tacito segno di gratitudine, Benvenuti accoglie questa volta il giovane argentino in Italia. L'argentino all'epoca ha un buon curriculum, ma non è mai uscito dal suo paese. Non ha mai combattuto con stelle di prima grandezza. Tant'è che fa fatica persino a racimolare i soldi per il viaggio fino a Roma, sede del match. E quasi nessun giornalista arriva dall'Argentina. En las noches de calor, cuando en mi vida no aparece el sol, viene un amigo del más allá, su nombre es Carlos Monzón. Seas boludo, ponete guantes y dale duro. En esta vida ya no hay nada que perder. Es mi compadre, Carlos Monzón. Tutti i pronostici sono con Benvenuti, ma in breve tempo al Palaeur di Roma, in quella fine d'anno 1970, si capisce che aria tira sull'incontro. Monzón non dà tregua a Benvenuti e colpisce duro per tutto il match fino ad arrivare alla 12ª ripresa, dove l'italiano, chiuso nell'angolo, non riesce a schivare un diretto pesantissimo alla mascella. Vedete che non concede tregua Monzón. Se Benvenuti resta sui colpi, l'Argentina è pronta a reagire. Allora, colpito da un destro all'angolo, vediamo Benvenuti a terra. Disperatamente di rialzarsi, non è in grado di combattere, crolla nuovamente e viviamo tutti interamente il dramma di Nino Benvenuti. Il campione Benvenuti va a terra. E dire che solo 3 anni prima era lui che mandava giù il grande Griffith. Oggi invece è l'oggetto misterioso Monzón ad atterrare il Nino nazionale. Ma Nino, ricordando il passato con Griffith, spera nella rivincita, nel riscatto. L'incontro per la rivincita si tiene nell'aprile del 71 a Monte Carlo, ma non c'è storia. Questa volta l'incontro dura solo 3 riprese. Benvenuti viene dichiarato sconfitto per lancio della spugna da parte del suo manager storico, Giorgio Amaduzzi. Mi arrabbiai con Amaduzzi, il quale aveva gettato la spugna per amore che aveva verso di me. Eravamo 10 anni assieme che lavoravamo e avevamo conquistato tutto assieme. E in quel momento lui riteneva che fosse finita la mia carriera ed aveva ragione. Probabilmente io in quel momento non lo capii, ma dopo, nel tempo, maturando, facendo i capelli bianchi, dici, ma probabilmente aveva ragione, perché avrei potuto continuare ancora, avrei potuto forse anche vincere, non lo so, ma avrei preso magari chissà quanti colpi che mi avrebbero fatto male. Pochissimi giorni dopo l'incontro con Carlos Monzon, Benvenuti annuncia la conclusione della sua carriera pugilistica dopo 90 incontri, con 82 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. L'ultima, forse la migliore, delle sue scelte ragionate. A Emil Griffith va diversamente. Pressato dal bisogno di denaro, è costretto a combattere fino al 77. È stato 5 volte campione del mondo, è stanco, è il momento di smettere. Da allora la sua vita si trascina. Sono anni non facili, in cui Emil si rende conto che nonostante tutti i soldi guadagnati a forza di fare a pugni, non gli rimane molto. La sua generosità nei confronti di tutti quelli che gli erano vicini, i familiari, gli amici, lo hanno lasciato con poco e niente. L'unica gioia è l'adozione di un 16enne appassionato di pugilato, Luis Rodrigo. Griffith inizia ad allenare in una palestra famosa, ma ha grossi problemi di salute. Nel 92 viene aggredito da una banda che lo spedisce all'ospedale. Perde un rene, va in dialisi, gli viene un'infezione al midollo. Accanto a lui c'è Luis Rodrigo, che lo accudisce. Ma non è l'unico. In Italia Emil ha sempre un amico, Nino Benvenuti. Quel Nino che, al contrario di lui, ha saputo gestire la sua carriera in modo formidabile, che dopo il ring ha saputo cogliere occasioni, qualche esperienza nel cinema, ottime apparizioni in TV e una seconda carriera da commentatore sportivo per la televisione, che lo ha riportato al centro del suo mondo, quello dello sport. Nino raccoglie fondi e vola in America per consegnare $10,000 a Griffith. Ma non finisce qui. Benvenuti vuole assicurarsi che Emil possa continuare a vivere una vita decente. Il desiderio è quello, e spero di realizzarlo, di creargli un vitalizio per poter vivere decentemente e serenamente. Quando verrà in Italia, sarà verso la fine di aprile, sto organizzando e sto già lavorando da molto tempo, e trovo dei collaboratori con me, per la sua venuta in Italia, di raccogliere quello che sarà necessario per creare un fondo con il quale poter vivere decentemente, serenamente, fino alla fine dei suoi giorni. Ecco, questo è il mio desiderio. Nonostante le differenze, dopo 40 anni, il legame fra Nino Benvenuti ed Emil Griffith è ancora solido. Forse proprio perché è inciso sul pavimento del ring più famoso del mondo, il Madison Square Garden, il tempio della box. O forse perché, come ha detto Benvenuti, non puoi non diventare amico di un pugile con cui hai diviso la bellezza di 45 round. Was shown, 'cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, secret plan. You're gonna make your fortune by and by, but if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.